Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. Mia madre era una buona fata. Contro la volontà di suo padre si innamorò follemente di un nobile cavaliere e divenne sua sposa, ma lui la portò alla perdizione e lei scomparve. Mio padre si risposò e si dimenticò di me. La malvagia matrigna, che era anche una strega, mi odiava e mancò poco che mi uccidesse. Il nonno però mi prese con sé. Amava moltissimo mia madre. Pianse così tanto per lei che dalle sue lacrime si formò questo lago e ci nascondemmo laggiù, nelle sue profondità. Sembra una favola, e in qualche modo lo è, solo che non è raccontata a parole come da libretto, ma messa in scena attraverso passi di danza così espressivi da essere in grado di sostituire il testo. Si tratta del monologo chiave del Lago dei Cigni, precisamente la scena in cui Odette si confida con il principe Siegfried nell'incontro magico fra due anime inquiete e dolenti in riva al lago. Oggi a Destini Incrociati, la danza è protagonista. Ma se siete tra quelli che già storcono il naso perché punte e tutù vi provocano quella sensazione che oscilla tra la noia e la sonnolenza, preparatevi a ricredervi. In fondo, Natalie Portman, con il suo cigno nero, si è appena guadagnata l'Oscar. No, non così rigida. Devi sedurre. E non solo il principe, ma la corte, il pubblico, il mondo intero. Forza! Di fu e te, sei il ragno che tesse la tela. Più grinta! Più grinta! Avanti! Beh, ben arrivata, finalmente. Scusi. Ragazze, lei è Lily. È appena venuta da San Francisco. Prenderà il posto di Rebecca. Salve. Dai, riscaldati. No, non serve. Sono pronta. Lo rifaccio? No, grazie, ho visto abbastanza. Solo la perfezione è accettabile nella rigida disciplina dei ballerini classici. Innumerevoli ore di allenamento quotidiano, estenuanti e ripetitivi esercizi alla sbarra, costrizioni fisiche da autoimporsi per cambiare il proprio corpo, per piegarlo all'arte. Non è difficile in una grande sala prova vedere una bambina piccola che si schiaccia i piedini sotto un termosifone per convincerli a stare bene aperti. E quanti piedi sanguinanti hanno le ragazze dopo faticosissime e dolorose prove in punta? Per non parlare delle diete cui sottoporsi, per non mettere su neanche un etto, il modo da reggere sempre il confronto con gli altri magrissimi colleghi e qualche volta rivali. Ma tutto questo non è niente rispetto alla gioia di salire sul palco ed esibirsi davanti a un pubblico estasiato. Lo sa bene Roberto Bolle, la grande étoile italiana. Nella nostra arte, che comunque è bellissima, ma è anche molto difficile, molto delicata, e bisogna essere veramente pronti, preparati, e non è sempre facile essere al massimo livello. Il primo balletto in senso moderno della storia, dal titolo Le Ballet Comique de la Reine, viene allestito in Francia nel lontano 1581. Ed è sempre qui che la danza classica si sviluppa maggiormente. A ufficializzarla il Re Sole, che tra le tante accademie che fonda ne dedica una anche al ballo. All'inizio tutti i danzatori sono uomini. La prima donna a ballare, Mademoiselle La Fontaine, sale sul palco nel 1681, mentre nel 1700 Raoul Auger Fauriet raccoglie in un libro le posizioni e i passi base che vengono usati ancora oggi, sebbene con qualche modifica. I danzatori del XVIII secolo si presentano in scena con maschere, grosse parrucche, scarpe col tacco. Invece le donne indossano gonne larghe e lunghe, strette nei loro corpetti. Ma presto ci si accorge che bisogna liberare il corpo, renderlo più leggero. Nell'Ottocento, il secolo nel quale la danza femminile comincia a prevalere su quella maschile, viene introdotto un gonnellino più corto, il tradizionale tutù, e compaiono le prime scarpette da punta. Negli anni del romanticismo, il balletto subisce il fascino di personaggi, scenari e temi caratterizzati da situazioni tragiche e sentimentali esasperate. Nascono la Sylphide, Giselle, il Lago dei Cigni, la Bella Addormentata, lo Schiaccianoci e il grande momento dei russi, che attuano la vera rivoluzione della danza, diventando quello che sono ancora oggi i più grandi maestri del mondo. E poi di lui si innamorò perdutamente il suo impresario e dei balletti russi. L'inverno con la mia generazione, le donne curve sul telaio vicino alle finestre. Un giorno sulla prospettiva Nevsky, per caso mi incontrai di Stravinsky. La determinazione, prima ancora del talento, è essenziale se si vuole diventare grandi ballerini. Rinunce, sacrifici, disciplina rigida ed estenuanti allenamenti cominciano fin da piccoli, quando la danza ruba il posto all'infanzia. Bene, ragazze! Un momento, ragazzi, un momento. Alt, Michael! Ma che cosa vi succede? Siete tutti così bellini e io li detesto, i bellini. Ci vuole sudore. Forza, dovete sfidare l'inerzia, vincere la legge di gravità. E quando uscite di scena dovete aprire le ali come se doveste spiccare il volo. Non lo fate questo, sembra che abbiate il culo di piombo. Ma viamo lo stesso, siete bravi, ok? Siete bravi, coraggio, ok? Il film The Company, diretto nel 2003 da Robert Altman, racconta un mondo che è metafora della vita, dove c'è complicità con alcuni e rivalità con altri, amori più o meno facili, ansia del debutto e paura di non essere all'altezza della situazione. Ma se questo vale per tutti, poi arrivano l'incidente, l'opportunità inaspettata e il trionfo finale, che calzano a pennello per la nostra storia di oggi. Primo protagonista, l'indimenticato Rudolf Nureyev. Rudolf Nureyev. C'è il movimento nel destino del piccolo Rudolf, che nel 1938 viene partorito a bordo di un treno nei pressi di Irkutsk, cuore della Siberia. 600.000 abitanti e più di 5.000 chilometri di distanza da Mosca. Una temperatura media annua sotto lo zero e le punte di massimo caldo estivo che non superano i 15 gradi. Nella stazione di Gusto Liberty, una delle più importanti lungo la Transiberiana, la mamma cerca di coprire come può il suo bambino nato senza troppo preavviso in quella gelida primavera. Noi russi siamo abituati al freddo, ma nella memoria di tutti non c'è l'inverno costante. I denti che battono, il corpo che non riesce a riscaldarsi. Nelle case non avevamo il riscaldamento, cercavamo di aggiustarci come potevamo con le stufe e le coperte. Ricordo mia madre continuava a prendere scampoli di lana e li metteva insieme. Non potevamo togliere la coperta dalle spalle neanche per mangiare e le notti erano terribili. Non mi sono mai scaldato del tutto. È per questo che durante gli allenamenti ho sempre tenuto in testa la cuffia di lana. La destinazione è Vladivostok, estremo oriente russo al confine con la Cina e la Corea del Nord. Se Mosca sta a più di 6.000 chilometri, Seul sta a solo 750 e Tokyo e Pechino poco più di 1.000, numeri che servono a dare un'idea dell'enorme estensione del continente sovietico. A Vladivostok c'è papà, un commissario politico di origine tartara, o meglio baschira, dell'Armata Rossa. Armata Rossa è il nome dato alle forze armate dell'Unione Sovietica dopo la disintegrazione delle forze zariste nel 1917. Inizialmente l'esercito funziona come una formazione volontaria, senza gradi e mostrine, e gli ufficiali vengono scelti attraverso elezioni democratiche. Ma poi un decreto datato 1918 prevede l'introduzione del servizio militare obbligatorio per gli uomini dai 18 ai 40 anni. Sono i commissariati militari regionali a occuparsi del reclutamento di massa. Esistono ancora oggi, con lo stesso nome e con la stessa funzione. Ma non vanno confusi con i commissariati politici, come quello di cui fa parte il signor Nureyev, che invece, assegnati dal partito alle unità militari, hanno lo scopo di effettuare propaganda politica in loco e di accertarsi che le decisioni del partito vengano seguite, con l'obiettivo di garantire negli anni immediatamente successivi alla rivoluzione la lealtà dei comandanti dell'esercito. L'Armata Rossa, protagonista della Guerra Fredda, alimenta da sempre letteratura e cinema sullo spionaggio, come Caccia a Ottobre Rosso, diretto nel 1990 da John McTiernan e tratto dal libro La Grande Fuga dell'Ottobre Rosso, di Tom Clancy. Si dirige dritto verso il siluro. Sì. Che sta facendo? Ha virato dritto verso il siluro. Cosa? L'Ottobre Rosso si è messo sulla traiettoria del siluro. Madre di Dio. Rilevamento siluro 315, distanza 4000 metri. Malekin, avanti tutto. Negativo, il reattore è già al 110%. Allora lo porti al 115%. Valutazione distanza 3000 yards, si sta avvicinando con estrema velocità. Difficile pensare a un mondo più duro, freddo e severo di quello militare. Spesso chi ne fa parte educa i figli come lui stesso è stato educato, secondo una rigida moralità che mette al primo posto la dedizione alla causa. È questo, prima di qualsiasi altra cosa, che il piccolo Rudolf ha imparato da suo padre, che con i sacrifici e la determinazione, senza perdere mai di vista il proprio obiettivo, si può arrivare ovunque. Mio padre, al contrario di mia madre, non è mai stato un uomo affettuoso. Parlava poco e tutto quello che diceva per noi era legge. Mai un abbraccio, mai una carezza, sempre e solo disciplina. Però mi ha insegnato la forza del lavoro, cosa vuol dire combattere, qualsiasi sia il tuo scopo. Rudolf cresce con i suoi fratelli in un piccolo villaggio nei pressi di Ufa, che oggi è un importante centro scientifico e industriale, ma che negli anni 30 e 40 vede ancora circolare pochissime automobili. Da ragazzino passa le ore sulle colline rigogliose a guardare il fiume Belaja che scorre davanti a lui con il traffico di piccole imbarcazioni e grandi navi che commerciano con Mosca. Tutto gli sembra lontano, anche se l'ha visto sui libri di scuola. Ha la sensazione di vivere in un mondo a parte, fatto di silenzio. Avevamo una casa con una sola stanza da dividerci in quattro e non avevamo il bagno, bisognava andare in strada. Davanti c'era una montagna di legna, la nostra salvezza, perché con quella riuscivamo un po' a scaldarci. Per guadagnare qualcosa cercavamo di raccogliere un po' di verdura e qualche fiore e lo rivendevamo al mercato e portavamo in giro i giornali. Culturale in Russia è molto viva fino allo scoppio della guerra. Trionfano le sperimentazioni nel cinema, nella musica, nella letteratura e soprattutto nel balletto, che ha una lunga tradizione. Nel 1738, presso il Teatro Mariinskij di San Pietroburgo, per un periodo chiamato Teatro Kirov, viene fondata l'Accademia di Danza e nasce ufficialmente il balletto russo. Pochi anni dopo, quando Caterina la Grande sale al trono, vuole per la sua festa di incoronazione un imponente spettacolo di danza, nel quale sono impiegate circa 4000 persone. Per organizzare l'evento, vengono invitati dall'Italia e dalla Francia i migliori maestri e ai coreografi più bravi viene chiesto di fermarsi a insegnare all'Accademia. Uno su tutti, il francese Marius Petipa, che per circa un trentennio dirige i balletti imperiali, creando i più grandi capolavori del repertorio classico come La Bella Addormentata, Il Lago dei Cigni e Lo Schiaccianoci. Al formalismo di Petipa, che privilegia la coreografia anziché musica e decor, con il fine di esaltare la figura femminile, si oppongono i ballet russe, fondati dall'aristocratico e illuminato impresario Diaghilev, che si distinguono invece per il rilievo dato al ballerino maschio, per la massima libertà nel linguaggio e per l'autonomia nell'espressione. Diaghilev eleva la qualità artistica della musica, delle scene e dei costumi, dando vita a una concezione unitaria della creazione come in un teatro totale. Chiede a Prokofiev i suoi primi balletti e affida i fondali a grandi nomi dell'arte internazionale come Picasso, Matisse, Braque e De Chirico. Dopo la morte di Diaghilev, la compagnia si sfascia, ma ormai i ballerini più potenti sono in giro per il mondo. Proprio da una di loro, la signora Udeltsova, ormai anziana insegnante, Rudolf Nureyev incomincia a prendere lezioni. Alla sua età le persone di solito cominciano ad avere mille acciacchi, fanno fatica a camminare a lungo senza stancarsi. Sono in pochi quelli che ancora riescono a correre o allenarsi. Lei faceva tutto questo e molto di più. Aveva più energie di me, che ero un ragazzino, e non faceva sconti. Aveva un viso dolcissimo, i capelli sempre raccolti in uno chignon e la leggerezza di una libellula. Ma il suo temperamento era più battagliero di quello dei militari come mio padre. L'amore per la danza è esploso nel cuore di Rudolf quando sua madre l'ha portato a vedere per la prima volta uno spettacolo in teatro. Da quel momento in testa ha soltanto quell'obiettivo, diventare un grande ballerino classico. Per la mamma è un orgoglio. Forse in fondo anche lei, come molti giovani, ha sognato di esibirsi su un palcoscenico in virtuosismi che lasciano il pubblico a bocca aperta, ma ha dovuto confrontarsi presto con il bisogno di lavorare, soprattutto quando, come durante la guerra, manca continuamente il cibo e bisogna vendere tutto quello che si ha per riuscire a mangiare. Per cominciare a farsi le ossa, Nureyev alterna la rigida disciplina della scuola con la leggerezza dei balli tradizionali delle feste di paese, dove dà il meglio di sé per la gioia di grandi e piccoli. Ma il suo talento non passa inosservato. La maestra Udeltsova, un giorno, senza avvisarlo, convoca gli altri insegnanti e il direttore per sottoporlo a una specie di provino. Mi ricordo perfettamente quella mattina in cui si sono seduti tutti di fronte a me e mi hanno detto di cominciare. Per poco non sono svenuto, ero terrorizzato. Ho iniziato a sudare freddo. Sentivo che in qualche modo mi stavo giocando qualcosa di importante. La risposta è unanime. Rudolf Nureyev non può più continuare ad allenarsi in provincia. Ha una marcia in più e deve tentare di entrare in un grande teatro. Lui stesso ne è convinto. E non ci mette molto a prendere la decisione della sua vita. Trasferirsi a Leningrado, che poi è l'attuale San Pietroburgo, e tentare il tutto e per tutto per diventare un ballerino del prestigioso Kirov Ballet. Nulla era meglio di Kirov, nemmeno il Bolshoi di Mosca, dove peraltro mi avrebbero preso. Io continuavo a chiamarlo Teatro Kirov, anche quando tutti, dopo che il rivoluzionario Kirov era stato assassinato, avevano ripreso a chiamarlo Marinsky. Quello era il mio sogno e avevo in testa solo e soltanto quel teatro. San Pietroburgo, seconda città della Russia, è stata fondata dallo zar Pietro il Grande sul delta della Neva, dove il fiume sfocia nel Golfo di Finlandia. A lungo capitale dell'impero e sede della corte degli zar, oggi è uno dei principali centri artistici e culturali d'Europa. Un bel impatto per chi come Nureyev ci arriva da un paesino della campagna dove sembra non succedere mai niente. Soprattutto è dura affrontare un ambiente competitivo come quello di cui fa parte, nel quale tutti sono nemici di tutti e non si accetta niente altro se non la perfezione. Ma Nureyev, oltre a talento e determinazione, ha una marcia in più. Inutile negare che la sua incredibile bellezza lo possa aiutare moltissimo in scena, come succede anche a Roberto Bondi. La danza comunque è un'arte che si basa sull'estetica, si basa sul movimento, sulla bellezza, sull'armonia. Quindi è molto importante anche avere un determinato tipo di fisico, una determinata presenza scenica. Questo mi ha molto aiutato nella mia carriera. È il 1955 e per un ballerino cominciare la strada del professionismo a 17 anni è già molto tardi. Di solito i talenti vengono indirizzati fin da piccoli, incominciano a frequentare tutti i giorni le scuole importanti quando ancora sono dei bambini. Ma in mezzo c'è stata la terribile guerra e Rudolf poco poteva fare se non accontentarsi di studiare in provincia e continuare ad aiutare la sua famiglia, nella quale si faceva grande fatica a campare. Ora però è arrivato il suo momento. Fisico perfetto, volto disegnato, eleganza innata e aria distaccata. Nureyev non è come gli altri e viene accolto a braccia aperte nella nota accademia di ballo Vaganova, associata al teatro Kirov. Il sogno si avvicina sempre di più. Voglio vederti danzare come le zingare del deserto, con candelabri in testa o come le balinesi nei giorni di festa. Destini incrociati. È il 1955 a destini incrociati e un giovane ballerino russo, Rudolf Nureyev, è appena arrivato dalla provincia per tentare la fortuna a San Pietroburgo, dove è stato ammesso alla prestigiosa Accademia Vaganova associata al grande teatro Kirov, per il quale danzano le étoiles. Tra queste c'è l'uomo che Nureyev vorrebbe diventare. È un mito per tutti quelli che sognano di esibirsi su un grande palcoscenico, acclamato dalle platee dei più grandi teatri internazionali. Il primo ballerino e coreografo Konstantin Sergeyev. Konstantin Sergeyev. Il talento di Nureyev è indiscutibile, tanto che lo stesso Sergeyev, che di solito con gli allievi è impietoso, un giorno passandogli di fianco alla sbarra per correggerne la postura, non trova in lui nessun difetto e gli sorride in segno di approvazione. un sogno per il giovane ombroso dall'anima di ghiaccio. Spiavo Sergeyev dalla finestra. Rimanevo a bocca aperta quando lo vedevo muoversi. Aveva un'energia che non ho mai visto in nessun altro al mondo. Qualche volta ci portavano a vedere gli allenamenti dei primi ballerini e ricordo che una volta abbiamo addirittura fatto lezione con Sergeyev. Un'emozione indimenticabile. Nureyev, geniale e sregolato, ha imparato a essere determinato da suo padre, rigido commissario politico dell'Armata Rossa. Ma forse più di tutti, la disciplina gliel'ha insegnata la sua maestra, la signora Udeltsova, storica ballerina della compagnia Diaghilev, che con la sua libertà di espressione ha rivoluzionato il mondo della danza. Oltre a tutto questo è bellissimo, praticamente un Adone dal corpo scolpito e il viso maschile e delicato allo stesso tempo, che gli dona un'espressività imprescindibile per ogni grande ballerino, come ricorda Roberto Bolle. Sono contento quando si scopre poi un'altra parte, che è quella dell'artista, perché questo a cui io, ma anche in generale i ballerini puntano, quello di trasmettere delle emozioni che derivano dall'anima, dai sentimenti, da un'interiorità, da un'introspezione di un personaggio, quindi riuscire a coinvolgere ed emozionare il pubblico, questo è quello che poi è una ricerca continua. Se fosse solo bellezza estetica sarebbe veramente un po' limitante come cosa, invece è una ricerca molto profonda e molto bella ed è quella che poi arricchisce e ti dà la voglia di continuare a ballare e di andare ogni sera in scena con un desiderio di interpretare magari un personaggio in maniera diversa e di emozionare così il pubblico. Se è vero che a un genio si perdona tutto, non è facile però sopportare il difficile carattere di Nureyev, lunatico, ombroso, a volte felice per pochi istanti e pronto ad aggredire subito dopo. Non accetta le critiche e non è raro che lasci la sala sbattendo la porta. Forse, vista a distanza di anni, quell'insicurezza da nascondere come una corazza gli viene dalla scoperta di un'omosessualità decisamente complicata da gestire nella Russia degli anni 50. Ma niente può riuscire a fermarlo. È ineccepibile nella pratica e preciso nella teoria, che nella danza è fondamentale. Finite le lezioni, andavo a vedere i grandi balletti di repertorio e memorizzavo tutti i passi. Mi aiutavo anche con i libri. Li sapevo tutti a memoria, atto per atto. Don Chisciotte, opera in 4 atti e 8 scene, tratta dall'omonimo capolavoro di Miguel de Cervantes, narra le avventure cavalleresche dell'hidalgo Don Chisciotte e del suo scudiero, Sancho Panza. Coppelia, opera in 3 atti che più ha colpito la fantasia dei coreografi. La trama è ispirata al racconto di Hoffmann, L'uomo di sabbia, dove i protagonisti sono Swanilda, Franz e un misterioso costruttore di giocattoli, Coppelius, che costruisce una bambola con un'anima, Coppelia. Carmen. Sulle note di Georges Bizet, l'opera drammatica si divide in 5 quadri. La storia, tratta da una novella di Mérimée, lo scrittore francese, è ambientata nella Siviglia degli Zingari e dei Toreri. Giselle, il balletto classico e romantico per eccellenza, diviso in 2 atti. Ispirato a un'opera di Heine, è ambientato nella Valle del Reno, dove la protagonista Giselle è una affascinante ragazza che si innamora di Albert, credendo sia un contadino come lei, ma che invece è un nobile. Lo Schiaccianoci, opera fantastica in 2 atti e 2 scene tratte da un'opera di Hoffmann. La piccola Clara riceve in dono uno schiaccianoci che in sogno si trasforma in un principe che la conduce in un meraviglioso viaggio. Grazie all'Accademia Vaganova, tanto celebre da dare il nome a un metodo di insegnamento della danza in moltissime scuole del mondo, il metodo Vaganova appunto, Rudolf Nureyev incomincia a essere un ballerino molto apprezzato in Russia. Ha anche il privilegio, raro per la verità, di esibirsi fuori dai confini, a Vienna, in occasione dell'International Youth Festival, dove dopo la sua performance viene acclamato come un divo. Poco gli importa, perché per lui avere la consacrazione significa solo e soltanto diventare primo ballerino del Kirov, come il suo mito Konstantin Sergeyev, che va a vedere appena può per impararne i segreti. Per motivi disciplinari, forse per colpa del suo caratteraccio, si vede revocare il permesso di viaggiare, che non è facile da ottenere nella Russia comunista. Quindi la sua carriera, che sembrava promettere bene, ha un balzo indietro. E Rudolf, se vuole continuare a esibirsi, è costretto ad accontentarsi di un tour nelle più sperdute province sovietiche. Ho dei bruttissimi ricordi di quel periodo. Non ero in pace con me stesso, non riuscivo ad ottenere quello che volevo, anche se sapevo che sarei stato in grado di ottenerlo. E ritornare dal cuore dell'Europa alle gelide città russe è stato davvero un trauma. Ma il destino è in grado di sorprendere come nient'altro e cambia la tua vita proprio quando meno te lo aspetti. 1961, un anno cruciale nel clima di tensione della guerra fredda che vede contrapposte le due superpotenze, Unione Sovietica e Stati Uniti d'America. La notte tra il 12 e il 13 agosto 1961, i sovietici a Berlino erigono una barriera di filo spinato che diventa rapidamente un muro con torri di controllo e zone minate. Vogliono fermare il flusso di persone che fuggono dalla zona comunista. Adesso abbandonare la zona comunista e oltrepassare questa barriera significa correre il rischio di essere ammazzati. Al Kirov stanno preparando una grandiosa tournée in Europa ed è previsto un sontuoso debutto dello spettacolo a Parigi. Nella vicina accademia, le promesse come Nureyev guardano con un misto di invidia ed ammirazione quelli che pirouette dopo pirouette ce l'hanno fatta. Finché all'improvviso arriva la notizia. Il protagonista principale del balletto, Konstantin Sergeyev, si è fatto male durante le prove e qualcuno dovrà sostituirlo in tutte le tappe della tournée. Ho provato in tutti i modi a rialzarmi. Non era certo la prima volta che mi facevo male e non avevo mai mollato. Ma stavolta era diverso e in quei pochi istanti di dolore mi sono passati davanti tutti gli anni di sacrifici che avevo fatto per arrivare fino a lì. Viso allungato, capelli perfettamente pettinati e abbigliamento che non lascia nulla al caso. Konstantin Sergeyev viene alla luce nel terribile inverno del 1910 in una casa senza riscaldamento nel centro di San Pietroburgo. La sua non è una famiglia povera, ma di quella borghesia russa che tiene molto alla cultura, tanto che per casa i libri non mancano mai. Molti bambini della mia età non sapevano leggere, ma nella mia famiglia leggevano tutti e me l'hanno insegnato presto. Mi sono sempre divertito a chiedere a papà di raccontarmi grandi classici prima di addormentarmi. Ero un bambino con una fertile immaginazione. Oltre a spingerlo verso la lettura, i genitori fanno sì che si appassioni al teatro, portandolo fin da piccolo a vedere i balletti russi portati in scena da Diaghilev, dove le coreografie sono spettacolari almeno quanto le musiche e le scenografie, per le quali ogni volta vengono convocati i più grandi artisti contemporanei. Gli studi di danza durano anni, e di imparare non si smette mai, neanche da vecchi. Eppure il talento va allenato precocemente, se non altro per ragioni fisiche, perché il corpo si deve abituare a posizioni che, per quanto sembrino naturali, non lo sono per niente. La danza classica, che si basa sul principio dell'end or, vale a dire in fuori, non segue l'impostazione che gambe e braccia tendono ad avere. Al contrario, lavora sulla muscolatura per dare vita a figure sinuose che si possono ottenere solo con sforzi costanti. Nel 1930, quando ha 20 anni, Sergeyev completa i suoi corsi all'Accademia di Stato dell'Opera e del Balletto, che altro non è che il futuro Teatro Kirov, nome che viene aggiunto solo nel 1935 per ragioni politiche. È bravissimo, impeccabile, professionale, al limite dello stacanovismo. La sua resistenza è impressionante. Regge ore di allenamento e in scena non ha mai una volta il volto tirato, come se non volesse mai far trapelare la fatica per non portare gli spettatori fuori dal sogno che stanno vivendo. Un bravo ballerino deve sempre essere sorridente. È lì per intrattenere, per divertire. I suoi sacrifici riguardano solo lui. La gente che lo guarda non lo deve neanche lontanamente immaginare. I ruoli da protagonista nel repertorio classico arrivano in fretta e ogni volta è un successo di pubblico e di critica. Non solo. Sergeyev partecipa a nuovi balletti e altri li inventa. La fontana di Bakhisarai, Le illusioni perdute, Il cavaliere di bronzo. E anche lei una grande étoile, Natalia Dundinskaya. Si sposa e si trasferiscono a Mosca per danzare insieme al prestigioso Bolshoi. Sergeyev diventa un vero e proprio divo, stimato e ammirato ovunque. I suoi movimenti sono di un'eleganza unica. Il portamento regale fa sì che fin dal primo passo prenda pieno possesso del palco. Le sue interpretazioni liriche lo fanno entrare perfettamente nei panni dell'eroe romantico e come insegnante è autorevole senza mai essere autoritario. In poche parole, un modello per tutti quelli che sognano la calzamaglia, proprio come il giovane Rudolf Nureyev. Destini incrociati. A Destini Incrociati siamo in Russia, la tradizionale patria del balletto che nel corso della storia ha sfornato decine di talenti. Konstantin Sergeyev, più che un semplice danzatore, è un divo acclamato da tutti, perché nessuno più di lui riesce a tenere il pubblico con il fiato sospeso per tutta la durata dello spettacolo. Dopo essere entrato al Teatro Kirov di San Pietroburgo, allora Leningrado, si è spostato per un periodo al Bolshoi di Mosca, per poi ritornare nuovamente a San Pietroburgo. Adesso è il 1961 e la compagnia si sta preparando per una grandiosa tournée europea, ma durante le prove, all'improvviso, cade per terra e non riesce a rialzarsi. Sono corsi subito tutti a vedere cosa mi era successo, ma io non vedevo nessuno. Riuscivo soltanto a pensare al male che sentivo, al fatto che non riuscivo ad alzarmi. Ho capito subito che non sarei andato al debutto di Parigi. Associata al Kirov c'è l'Accademia, come succede in tutti i grandi teatri, come per esempio la Scala di Milano. È lì che studiano i giovani più promettenti, sui quali spicca Rudolf Nureyev, bellissimo, austero e dal carattere difficile, arrivato dalla gelida provincia. Al momento di scegliere il sostituto per Sergeyev, l'insegnante non ha dubbi. Sarà lui che unisce la tecnica perfetta all'espressività, ad andare a Parigi. Ho chiesto di ripetermelo. Avevo paura di non aver capito bene. Io sostituire proprio Sergeyev, il mio modello. Era da tutta la vita che aspettavo di debuttare finalmente in grande stile e non li avrei delusi per niente al mondo. 19 maggio 1961, Palais Garnier, Parigi. Va in scena la Bayadère e il pubblico, uomini in smoking e donne in lungo, si sta accomodando sulle poltroncine della platea e gli sgabelli dei palchetti. Dietro le quinte, Nureyev sta facendo riscaldamento per prepararsi a esordire sulle scene internazionali in sostituzione del grande Sergeyev. La responsabilità è infinita. Direttori e insegnanti lo controllano e lo riempiono di raccomandazioni. Ma lui non vuole ascoltare niente. Vuole solo rimanere concentrato su di sé e sulla sua potenza. Quando si apre il sipario, la scena è tutta per lui. Impossibile poggiare gli occhi su altro che non siano i suoi movimenti. Qualcuno mormora qualcosa nell'orecchio al vicino di posto. Dall'alto le signore più attente inforcano il binocolo per non perdersi nulla. Perfino le maschere sono catturate dalla bellezza di quell'essere che sembra venuto da un altro pianeta. Sentivo un'energia che non avevo mai provato prima. Sono sempre stato teso durante le esibizioni, anche se cercavo di mostrare il contrario. Invece, quella sera, è come se mi fossi disteso, forse perché quello era davvero il momento giusto, anche se ormai avevo già 23 anni. Sergeyev lentamente si riprende e ricomincia a ballare, prendendo anche il ruolo di direttore del Teatro Kirov. La sua carriera è costellata di grandi successi, tra interpretazioni di balletti di repertorio e creazione di nuovi. Intanto, Rudolf Nureyev si gode il suo trionfo europeo. Tutti parlano del talento venuto dal freddo. Donne e uomini cadono ai suoi piedi, la critica lo esalta, i fan lo idolatrano. Ma nuovamente Nureyev infrange le regole, perché si mescola con gli stranieri quando il regime lo proibisce e viene costretto al rimpatrio. Non cede. Si rende conto che non gli sarebbe mai più stato permesso di espatriare. E il 17 giugno, al momento di partire dall'aeroporto di Parigi, defeziona. non rivedrà più la Russia fino al 1989, quando riuscirà a visitarla grazie a uno speciale invito rivoltogli da Mikhail Gorbachev. Nonostante la distanza, sono sempre stato legato alla Russia. Anzi, più stavo lontano e più mi mancava. La prima cosa che ho fatto quando sono tornato, dopo aver salutato la mia famiglia, è stato tornare a vedere il mio amato Kirov. Dopo l'esplosione del debutto, nel giro di una settimana, Nureyev viene scritturato dal Gran Ballet du Marquis du Queva e interpreta La Belle au Bois Dormant con la grandissima Nina Virobuva. Oltre alle sue caratteristiche eccezionali, è anche grazie alla sua bellezza incredibile, inutile negarlo, che diventa una star internazionale che può decidere sempre dove e con chi ballare. Per esempio con Margot Fonteyn, una delle migliori ballerine inglesi a lui contemporanee, con la quale inizia una fertile collaborazione professionale e un'amicizia profonda. È lei a introdurlo al Royal Ballet di Londra, che rimane la sua base per gli anni a venire. Nureyev e la Fonteyn, insieme, cambiano per sempre, grazie alla loro interpretazione, balletti di repertorio fondamentali come Il Lago dei Cigni e Giselle. Nel momento in cui lei lascia le scene, i due continuano a frequentarsi e rimangono legatissimi anche quando lei si ammala di cancro e lui continua a starle vicino nonostante i suoi numerosi impegni di lavoro, che comprendono ormai anche interviste, televisione e cinema. Come quando, nel 1976, diventa per Ken Russell Rodolfo Valentino. A Nureyev si devono una rivalutazione del ruolo maschile e lo spostamento del confine tra la danza classica e la danza moderna. Una tendenza pop che porta avanti con dedizione, insieme a molti altri suoi insegnamenti, uno dei suoi pupilli, Roberto Bolle. È importante per qualcuno come me, che ha fatto un determinato percorso, cercare di trasmettere questi valori, cercare di far capire l'importanza di fare dei sacrifici, di costruire qualcosa nel tempo, negli anni. Impulsivo, intollerante al limite della maleducazione, ma anche amico fedele e generoso, Nureyev frequenta Jacqueline Onassis, Mick Jagger ed Andy Warhol e pensa che l'amicizia sia un lavoro quotidiano, proprio come la danza. Quando l'AIDS compare nel mondo, anche lui si ammala. Per un po' di tempo lo nega, rifiuta i trattamenti e le cure, finché deve arrendersi alla morte. È il 1993. Fa giusto in tempo, 4 anni prima, a tornare per l'ultima volta in Russia, invitato da Mikhail Gorbachev. La prima tappa è la famiglia. La seconda, il suo amato Kirov. Rudolf apre la porta della grande sala e si commuove a sentire che il parquet scricchiola ancora nello stesso modo dopo che è passato così tanto tempo. Alla sbarra, impegnati nei plié, ci sono le nuove leve, ragazzini che non appena lo vedono si immobilizzano, estasiati di fronte al loro idolo. L'insegnante, che non si è accorto della sua presenza, dice al pianista di fermarsi e si volta. È Konstantin Sergeyev. Ormai è anziano, ma ogni tanto viene invitato a tenere una lezione. Distinto, con le lacrime agli occhi, getta le braccia al collo di Nureyev. E lui, di indole distaccata e dall'animo di ghiaccio, si abbandona a quell'uomo grazie al quale è diventato quello che è. Forse, per la prima volta, sente quel calore che ha rincorso dal giorno in cui è venuto al mondo. La danza è tutta la mia vita. Esiste in me una predestinazione, uno spirito che non tutti hanno. Devo portare fino in fondo questo destino. Intrapresa questa via, non si può tornare indietro. È la mia condanna, forse, ma anche la mia felicità. Se mi chiedessero quando smetterò di danzare, risponderei quando finirò di vivere. You can dance every dance with the guy who gives you the eye, let him hold you tight. You can smile every smile for the man who held your hand beneath the pale moonlight. Destini incrociati. Destini incrociati. Adattamento radiofonico di Giorgio Bacco. La redazione vi aspetta su destiniincrociati.it. Ora Destini incrociati è anche un libro. Questi destini si incroceranno di nuovo questa sera alle 23, qui su Radio 24.